La domanda che mi pongo, la domanda è la seguente: ha senso presumere che l'interlocutore sappia tutto e al contempo star bene attenti a non dirgli nulla? Evidentemente sì, mi rispondo, visto che lo facciamo tutti i giorni. Ci ritroviamo continuamente in situazioni frustranti e deprimenti in cui lo so io e lo sa lui che le cose stanno così, ed entrambi sappiamo che l'altro lo sa, ma facciamo finta che le cose stiano altrimenti. Per lo più, grosso modo, sappiamo anche il perché in queste situazioni ci siamo andati a finire. Con la moglie, con i figli, con gli amici, con chi pur condividiamo affetti reciproci preferiamo a volte il quieto vivere garantito da un'ipocrisia piuttosto che lo scontro, piuttosto che l'eventuale contrapposizione cui molto probabilmente ci porterebbe l'esplicitazione della nostra verità. Il tipo di vita che ci propone e ci impone la nostra civiltà è pieno zeppo di conflitti latenti in casa, per la cosa che non si trova, non lo so, in condominio perché quelli di sopra fanno troppo rumore, per la strada perché non c'è neppure il posto per camminare, sul tram perché nell'affollamento ogni contatto è vissuto come una violazione di sé e dei propri diritti, sul posto di lavoro per il servilismo del tale e per il carrierismo del tal'altro, in coda per entrare al cinema perché c'è qualcuno che non rispetta il turno toccatogli dall'orario del suo arrivo, nel parcheggio sotto casa perché uno ha messo l'auto di traverso occupandosi da solo il posto buono per altri due. Se la giornata non è piovosa, anche una pozza di liquido in ascensore può costituire la buona causa per un ampio conflitto di interessi. Giorni fa sono stato chiamato a giudicare un caso che si andava facendo spinoso. La signora del terzo piano sembrava scandalizzata. Aperta la porta dell'ascensore, si è messa ad urlare chiamando il portinaio. Forse aveva letto l'autobiografia di Feyerabend, laddove racconta che a Vienna, ai primi del secolo, era d'uso, almeno nei caseggiati popolari, disseminare escrementi sulle scale e sui pianerottoli in segno di resa dei conti fra inquilini, o forse no. Fatto sta che urlava che era pipì. Qualcuno ha fatto la pipì in ascensore, stava dicendo mentre arrivavo giusto io, e non è la prima volta. Il portinaio scuoteva la testa perplesso. Una pozzetta sul pavimento dell'ascensore c'era davvero, ma in verità era poca cosa. Una pipì di qualcuno che o l'aveva fatta proprio a malincuore o comunque doveva averci un problema enorme di prostata, e lui scuoteva la testa. Quella contraddetta si inviperiva di più e in cerca di prove convincenti ha sentenziato che era proprio pipì e che lo si sentiva benissimo dall'odore. Io e il portinaio allora ci siamo introdotti ed inchinati a turno nell'abitacolo, abbiamo usmato al meglio delle nostre capacità ed infine alla rognosa megera abbiamo fornito il nostro giudizio conclusivo. Il portinaio, che è un materialista e che evidentemente presume dal proprio naso prestazioni superiori a quelle di un buon laboratorio di biochimica, ha detto: acqua minerale. Io, più poetico, ho detto: lacrime, signore, lacrime, sono lacrime. E visto come vanno le cose al mondo, le dirò che mi meraviglio sia di quanto poche esse siano e sia di quanto raramente mi capita di osservarne. Negli ascensori, poi, soprattutto in quelli come questo, dotati di specchio, c'è da chiedersi semmai come faccia la gente a trattenersi. Lo straccio del portinaio bofonchiante, forse il mio richiamo allo specchio, hanno indotto la furia della condomina a più miti borbottì, e presumibilmente pensando che io ero davvero quel cretino che aveva sempre pensato, ha finito con l'arrendersi ed è entrata nell'ascensore per salire finalmente al suo empireo. Io no. Io sono salito a piedi perché a me secca moltissimo, in definitiva, viaggiare in ascensore con quella signora, soprattutto in un ascensore dove qualcuno aveva appena fatto quel poco di pipì che era in grado di fare. Come dice la Bory, nelle condizioni del nostro vivere associato, fuggire non sempre è possibile, anzi quasi mai. Ragion per cui si va avanti con soluzioni ad alto contenuto di ipocrisia che, almeno nella maggior parte dei casi, hanno il vantaggio, accumulando stress e frustrazioni, tuttavia di non far degenerare la situazione. Sappiamo tutti e due benissimo come stanno le cose, ma non ce lo diciamo. C'è della viltà in tutto ciò, non si vive bene, ma pochi hanno il coraggio di trasgredire questo accordo implicito e pochi sono disposti a pagarne le conseguenze e le conseguenze in termini di diversità e di stigmi sociali. Un caso estremo di questo stato di cose, forse il caso proprio più estremo, mi è capitato proprio un paio di giorni prima dell'episodio ascensoriale, chiamiamolo così, di riscontrarlo. Mi è capitato grazie ad una curiosa inserzione a pagamento sulle pagine di un quotidiano svizzero. Si trattava, come recitava il titolo, di una preghiera allo Spirito Santo. Ci si rivolgeva a questo divino interlocutore con il tu. Tu che mi rischiari tutto, tu che mi dai questo e quello, tu che sei al mio fianco, eccetera, eccetera. E grosso modo consisteva in una doviziosa tessitura di lodi al suo indirizzo. Sotto la preghiera, l'anonimo inserzionista apriva una parentesi che testualmente diceva: pubblicare questa preghiera una volta ricevuta la grazia. Recitare questa preghiera 3 giorni di seguito senza menzionare la richiesta. Si capirà il mio stupore. Come interlocutore cui di principio si attribuisce conoscenza della locuzione, meglio dello Spirito Santo non dovrebbero essercene. E tuttavia guai a dirgli esplicitamente quel che voglio da lui. Valgono per lo Spirito Santo gli stessi trucchetti che debbo usare con mio figlio o con mia moglie nei momenti di crisi. Zitto, dire una cosa per l'altra, sperando in bene. Perché se solo faccio tanto di lasciarmi scappare come effettivamente stanno le cose e cosa effettivamente vorrei, col cavolo che lo ottengo. È un caso limite di malessere sociale. Un caso che, da pio che vorrebbe essere, è tanto autocontraddittorio da risultare blasfemo, come rivolgersi all'onnisciente ritenendolo, in virtù della specificità del nostro rapporto, lievemente minorato. A winter's day in a deep and dark December. I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen December. I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud.